Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tutti pronti allora? Ed eccola qui, nella notte di Madrid, la coppa che Javier Zanetti alza nel cielo spagnolo. La mostra a tutti i tifosi dell'Inter e parte ufficialmente la festa. Partono i coriandoli, i confetti, i flash. Adesso è tutto vero. L'Inter ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Ha vinto la 55esima finale della Coppa dei Campioni, Champions League. Vergogna. Vergogna a tutti stranieri. No, stiamo scherzando. Arrigo Sacchi, non ti arrabbiare. 800240024. Pardo, dimmi. E un'orchestra contenti stranieri. Abbiamo Arrigo che ci sta magari ascoltando. Ricordiamo 800240024. Ieri abbiamo avuto 560.000 telefonate. Pensa che poi arriva anche Cruciani. Lo dichiaro prima, così se poi non arriva. Così se poi non arriva pubblicamente viene sputtanato. No, di fronte oggi dobbiamo battere il record di ieri di 560 telefonate. 800 24 00 24. Perché ti ha preso sta fissa? Ma perché De Luca l'ho visto veramente. De Luca, no, nostro autore è là, che deve fare? L'ho visto lì col quadernino che contava. Col quadernino, davvero? Forza, 800 24 00 24. Gianmarco Ferronato, di il numero, dillo 800 24 00 24. Allora, 5 anni fa il triplete dell'Inter. E adesso sta per arrivare. Pronti? Il triplete. Vai. Della Juventus. Ah, eccola. Siamo oltre, sembra il buco così. Credo che questa squadra qui, rispetto a quella che ha giocato 12 anni fa alla finale, sia una squadra a livello caratteriale molto, molto simile, ma è nel DNA della Juventus avere squadre caratteriali. E quindi noi bisogna prepararsi al meglio, ma soprattutto bisogna giocare bene tecnicamente, perché quando giochi una partita del genere non puoi pensare a difendere o di giocare una partita solo di intensità fisica. Bisogna giocare bene tecnicamente, Pardo. Tecnicamente. È la parola preferita di Massimiliano Allegri. Ragazzi, perdonatemi, parlo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Mentre Ancelotti sta arrivando, forse no, perché oggi ha detto che lunedì vedrà Real Madrid e lui si sente ancora del Real Madrid. Insomma, lo licenziano in tronco probabilmente nel corridoio degli spogliatoi dopo la prossima partita. Però esatto. Io continuo a non credere che arriverà al Milan. Continuo a non crederlo. Se vuoi, è molto suggestivo. L'hai chiamato? Dimmi la verità. Non l'ho chiamato, me lo puoi dire. Ho perso tempo, ho fatto un po' di riunioni e non l'ho chiamato. Lo volevo chiamare e mi sono dimenticato. Quindi sono una pippa. Detto questo, penso che ci sia la suggestione, perché in questo momento questa è una grande storia d'amore fra due soggetti in difficoltà. Il Milan, Ancelotti mica è in difficoltà. Ancelotti è uno dei primi 5 allenatori del mondo, certo, o forse sul podio, certo, forse tra i primi 3. Infatti, detto questo, se domani mattina arriva il Barcellona o arriva il Manchester City o arriva anche magari il Paris Saint Germain di nuovo e fa una proposta, secondo me Ancelotti ringrazia Berlusconi e gli dice di no, perché appunto è un professionista. Se però questa cosa, per una serie di motivi che possono sempre capitare nella vita, non dovesse succedere, questa sarebbe una sfida stimolante. E io non credo che Ancelotti sia immune al fascino. Cioè, io credo che sia, poi voi pensatelo della vostra vita, cioè voglio dire, c'è una, adesso mi vengono solo esempi volgari, per senti, cui senti, questa, senti questa, Gabriele da Modena, messaggi, non do mai il numero, Pierluigi, tu lo sai, 349-238-6666, do il numero degli sms che comunque arrivano in quantità infinita. Ancelotti al Milan? Sì. Fino alle elezioni regionali poi vedremo, Gabriele da Modena. Ma no, io non penso, guarda, vorrebbe dire che tutta la stampa italiana si presta a un giochetto per favorire. Esatto, non credo che sia questo, non credo che sia neanche più il tempo di questo. Berlusconi, per carità, è un uomo di politica e di calcio, quindi è abituato a governare il consenso e a doversi inevitabilmente confrontare col consenso che va o che viene a seconda dei momenti della sua vita, quindi in astratto il discorso ci potrebbe anche stare, però sì, Milan ha dato e ha preso. In questo caso mi sembra proprio di no, mi sembra proprio di no, insomma, non lo credo nemmeno io. Resta da stabilire, cioè io non credo che Ancelotti, che allenatore al top del mondo, possa andare ad allenare una squadra che vale la metà della classifica del campionato italiano, nemmeno per questioni di cuore. No, però può essere comunque una sfida, così come può essere una sfida se ci fosse libera la panchina della Roma. Cioè, sono squadre che lui ha amato, che lui ama, e che in un determinato momento potrebbe essere anche una coincidenza di obiettivi. Poi è evidente, ribadisco, che se dovesse arrivare un top top top club, sì, Ancelotti ci va, ma senza alcun dubbio. Senti, allora facciamo così. Adesso abbiamo il traffico, poi abbiamo un collega che non ci crede neanche dipinto. Sì. Poi più tardi arriverà Cruciani. Ti faccio tutto. Sì. Eccolo qua, è già arrivato. Buonasera. Non mi sono dimenticato, forse ti arriva un messaggio lunedì, tiki taka? Ottimo, certo. Beh. Oh, vabbè, allora che devo fare? Faccio la centralista. Dimmi chi devo dire, chi devo convocare? No, tiki taka? Faccio le convocazioni, ci penso io. Tutto già fatto. Albertini, Montali, poi abbiamo delle Albertini, sorprese. Albertini, signor Albertini Demetrio, lunedì convocato a tiki taka. Aspetta, poi chi è che hai? Signor Montali, Gianpaolo, lunedì, tutto lunedì a tiki taka a presentarsi. Prego, traffico. Pardone non significa il grande pardo, significa pardo one. Tutti convocati. Tutti convocati. Quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni a Manchester, ho tenuto nelle orecchie e nel cuore una canzone che vorrei cantare adesso insieme a voi. Comincio io. Ale, ale, ale, Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Certi amori finiscono. Ma dai, ma perché fate i romantici? Fanno dei giri. Dai. E poi ritornano. Vabbè, che mi fai sentire? Amori indivisibili. Che mi fai sentire? Bah. Indissolubili. Bah. Inseparabili. Basta, dai, grande Antonello Venditti, però dai, adesso facciamo i cinci. Sì, però ragazzi, facciamo i cinci, diciamo la verità. Non ci crede nessuno. No, non è che non ci probabilmente succederà per una combinazione astrale. No, secondo me accadrà per una combinazione astrale che porterà che accadrà. Ancelotti prenderà una buonuscita del 50% del suo stipendio l'anno prossimo da Real Madrid. Le squadre inglesi hanno puntato evidentemente su altre fish, perché lui voleva tornare in Inghilterra. Non dico che gli resta solo il Milan, perché ovviamente un lapsus, però Ancelotti potrebbe andare, potrebbe anche restare fermo, non gliene frega niente, dovrebbe. Un uomo ricco, però secondo me dovrebbe, appunto, e dunque andrà al Milan per questo richiamo degli affetti. Io credo che sia l'opzione peggiore per il Milan, perché uno, le minestre riscaldate, giornate, sarà pure un modo di dire, sarà pure una frase fatta, ma è comunque una minestra riscaldata e non è mai riuscito a nessuno di essere vincente nello stesso posto. Due, credo che sia l'unica scelta, sia una scelta del Milan semplicemente perché nel caos generale, in una situazione in cui non si sa se il Milan resterà totalmente di Berlusconi, non si sa se ci saranno altri finanziatori, Berlusconi deve mettere un Giuseppe punto Cruciani, fermo. Cosa sai tu di questo? Ma cosa so, cosa significa cosa so? Cosa sai è una mia previsione, sensazione. No, ma nulla, non so nulla. Non sai nulla. Ma certo, diciamo, non seguo il mercato degli allenatori ora dopo ora. Ti sto dicendo quella è la mia sensazione. Di solito ci prendo in queste cose, credo che poi non ci sono smentite, non c'è nulla, credo che sia una cosa che accadrà, ma secondo me non, forse per il Milan si tratta di mettere un punto fermo, cioè il Milan in questo momento ha bisogno di una roba che dica va bene, abbiamo un signore che decide. E questo qua è Ancelotti, però non dimentichiamoci che le ultime scelte fatte da Berlusconi, fortemente volute da Berlusconi, e anche lì erano un richiamo degli affetti, tutto quello che volete, sono miseramente fallite. Allora, sai chi non ci crede? Aspetta, Pier, sai chi non ci crede a ritorno di Ancelotti al Milan? Perché oggi ne scrivono tutti da tutte le parti, però c'è uno che invece ha scritto il contrario, che è Furio Fedele. Ciao Furio. Buongiorno a tutti. Allora, spiega a Cruciani e a Pardo perché Ancelotti non tornerà al Milan. Non tornerà al Milan perché innanzitutto ancora l'allenatore del Real Madrid aspetta la buona uscita e perché ovviamente aspetta di essere cacciato. E cosa che accadrà tra tre giorni, al massimo. Secondo me già qualcosa di ufficioso c'è già stato oggi perché il suo uomo di fiducia Ernesto Brondezzetti ha parlato proprio con Perez di questo dettaglio, che non è sicuramente un dettaglio perché si tratta di una cifra congrua. Poi Ancelotti... È vero, io no, oltre a non essere romantico, abbastanza cinicamente ricordo che nei ritorni del Milan ci sono state le seguenti seconde e fallimentari apparizioni: Gullit, Sacchi bis, Cappello bis. Shevchenko e Kakà. E mi sembra, e stiamo parlando la migliore di tutte è stata l'ultima. No, assolutamente no, perché Kakà era venuto qui come al solito battendosi la mano sul cuore, ma solo perché gli interessava tornare ai mondiali del Brasile, quando ha capito che Scolari l'aveva bocciato è sparito anche Kakà dal campo. E stiamo parlando, Gullit, Shevchenko e Kakà, di tre palloni d'oro, non di tre giocatori qualsiasi. Quindi mi sembra un dettaglio da non sottovalutare. Poi che Ancelotti non abbia alternative non è vero. Innanzitutto può restare fermo ed aspettare il primo cadavere, calcisticamente parlando, ovviamente, che può transitare. Potrebbe essere proprio quel Pep Guardiola che tenta il riscatto al Bayern Monaco, ma ha già firmato un precontratto col City. Nulla di più facile che a salire su questa grande super squadra e soprattutto grande società che potrebbe imbarcare Ancelotti per la sua quinta e si spera trionfale parte di carriera, allenato con successo e con profitto in Serie A, nella Ligue 1, Paris Saint-Germain, nella Premier League col Chelsea e appunto nella Liga con il Real Madrid. Io dico che Ancelotti va al Barcellona, poi lo proveremo a scoprire se è una pista fondata. Ma comunque sicuramente Ancelotti non si fida di questo Milan e può essere addirittura usato come diversivo, perché il Milan sta puntando secondo me un altro allenatore che non è Ancelotti. Chi è? Pronto? Voglio vedere quello dello sport. Piano, massima interattività. Allora, Marino Bartoletti mi scrive un messaggio SMS: Cruciani ha ragione, Marocco fu una bella minestra riscaldata. Chi? Marino Bartoletti. No, lo so che è Marino, ma chi è Rocco? Rocco. Erano altri tempi, dai, su. Aspetta, dite a Cruciani che qualche volta la minestra riscaldata funziona all'Ippi, alla Juve 2001, 2004, due scudetti, due supercoppe. Pardo. Sì. Ma io non... Perché è tema libero, io direi che voglio dirti che secondo me, io pure non è che sono convintissimo che Ancelotti per forza dovrà finire al Milan. Io penso che sia una suggestione, penso che sia una possibilità, credo che sia meno probabile rispetto ad altre destinazioni. Non è una suggestione, l'ha chiamato Berlusconi, è più di una suggestione. Sì, l'ha chiamato Berlusconi e da quello che mi sembra logico e probabile, Ancelotti ha preso tempo. Ha preso tempo, certo, perché ci possono essere altre ipotesi, così come Benitez ha preso tempo qualche giorno fa e forse ci siamo con il Real Madrid. Cioè, questa cosa del mercato degli allenatori ogni anno è la stessa. È un gioco di domino su panchine e caselle che si aprono o che si chiudono, con allenatori che vengono chiamati. E mi sembra che siamo esattamente in questa situazione qui. No, d'accordo, però a mio parere tutto porta verso Ancelotti per vari motivi, perché altrimenti avrebbe già detto di no. È evidente che sta cercando delle garanzie che Berlusconi ovviamente da par suo a voce gli darà, perché non è che gli può dire presidente, quanti soldi ci sono da spendere per rifare questa squadra, che è una squadra a pezzi, che è una squadra da rifare. E lui darà: io le risorse ce le metto, se non ce le metto io le mette qualcun altro, ti do queste garanzie qua. A voce Berlusconi le garanzie gliele darà, su questo non c'è dubbio. Ancelotti, se avesse già offerte dal Manchester City, Ancelotti dov'è che può andare sostanzialmente? Ovunque, è ovvio. Ma un allenatore che esce dal Real Madrid può andare al Manchester City, non c'è un'altra squadra dove, o al Barcellona, certamente io non ci credo al Barcellona, il Barcellona ha già un po' smentito. Ma anche quello è divertente. Sì, è divertente, per carità. È Furio Fedele, sai chi scrive? Bayern Monaco. Bravo Fedele, Ancelotti va al Bayern, scrive. Vabbè, tutto possibile. L'unica cosa concreta è la telefonata di Berlusconi, un interessamento evidente da parte del Milan a farlo tornare qui. Con 3-4 milioni di euro e la buonuscita di stipendio, perché ovviamente Berlusconi soldi per Ancelotti bisogna che li sborsi, quello è evidente, no? Già ne dà 1,5 a Inzaghi, quant'è che ne dà? Se ne dà 3 ad Ancelotti non è uno scandalo. Ne darà 3/4 ad Ancelotti, vabbè, quello l'ha messo nel conto ormai. Più la buonuscita del Real Madrid per 3 anni, Ancelotti con un programma di ricostruzione ci può anche stare. È l'unica squadra, diciamo, non di livello dove Ancelotti può andare. Se tutte le altre caselle si chiudono e lui non vuole restare fermo, perché Furia ha ragione da questo punto di vista, Ancelotti potrebbe rimanere fermo, non c'è dubbio, e aspettare o qualche cadavere, anche se non è che sia uno che prende le squadre in corsa, oppure aspettare l'anno prossimo tranquillamente, restare un anno e vedere quello che succede. Questa è un'ipotesi, secondo me è 50% Milan, 50% fermo. Furio? No, sul fatto, Giuseppe, che Ancelotti non prende squadre in corsa, lo fece col primo Lippi in primavera, che poi la Juventus disputò l'Intertoto, sì, e poi con il Milan quando Terim fu esonerato praticamente da qualche calcio. Vabbè, di ma ora non ne ha bisogno, dai, non ne ha bisogno, no, adesso. No, però il Bayern gli garantisce 1 milione al mese come minimo, e non è un dettaglio. Il Bayern quando? Il Bayern subito? Subito, ma adesso Guardiola parte. Mi sembra sia stato confermato, esatto, anche dalla dirigenza. Sì, ma già firmato un contratto con il City ed è reduce da una stagione non bellissima, perché ha vinto solo la Bundesliga, vinto solo con 20 punti. Ha già un contratto con il City? Un pre-contratto con il City. Ha un pre-contratto con il City. È ufficiale. Infatti il City, nonostante Pellegrini abbia fallito, trattiene Pellegrini in attesa di Guardiola. È tutto un gioco a incastri. Ma tornando, ripeto, ad Ancelotti. Ancelotti vuole una squadra competitiva, vuole una squadra, e sopra, a maggior ragione, una squadra che non sta disputando nessuna coppa, tantomeno la Champions League. Poi sulla buona uscita di Ancelotti sono compresi i premi, non è che gli stanno dando una manciata di euro, comunque Giuseppe varrebbe per un anno, gli altri 2 anni il Milan non è in grado di pagare un ingaggio milionario di 6, 7, 8 milioni 6, 7 euro. No, infatti ho parlato di 3, 4 io. Sì, ma la buona uscita vale per quest'anno, non è che ogni anno il Real Madrid dà una buona uscita sì, a Ancelotti però, per fare. Scusami Furio, no, però prego. C'è un altro elemento, tu dici una cosa esatta, lui vuole una squadra di livello che faccia la Champions, quello che vuoi, però Ancelotti ha già vinto tutto, cioè è vero che è giovane, non è un allenatore anziano, quello che vuoi, però Ancelotti ha già vinto, quante ne ha vinte? 3 Champions, ha vinto 3 Champions con il Milan, Intercontinentale, esatto, nel posto che lo arrapa di più in questo momento, esatto, cioè in quella che secondo me è la sfida che più, esatto, che più lo attrae, e questa potrebbe essere ce ne sono chiaramente di più divertenti che resuscitare il povero malcapitato calcagnato Milan di questi tempi e riportarlo verso un certo tipo di gloria. Sì, però se hai le risorse necessarie. Ma scusami, ma secondo te ora Ancelotti, che appunto è un top allenatore, uno dei primi 3 d'Europa, viene, e tu sai quanto io sono affezionato al Milan, viene al Milan senza coppe, con una squadra da ricostruire, quando c'è mezza Europa che lo sta cercando, senza coppe, con una squadra da ricostruire e senza soldi certi, perché non abbiamo ancora capito, può essere addirittura un plus, nel sì, senso che io devo rifondare e il mio obiettivo è fare meglio di quest'anno, ci vuole poco, non avere le coppe può essere addirittura un vantaggio. Scusate, perché Mancini è andato all'Inter? Mi spiegate? Cioè, alla luce di questo principio, Mancini non sarebbe mai dovuto andare all'Inter. Esatto. Vabbè, ragazzi, dobbiamo aggiornare la seduta. Dobbiamo aggiornare la seduta a dopo la borsa, che siamo già, abbiamo sforato di parecchio. Saluto e ringrazio Furio Federico, Corriere dello Sport. A voi. Ciao, Furio. Ciao, mi tengo ovviamente Giuseppe Cruciani per Luigi Pardo. Ci divertiremo. 800-24-00-24. Aspetta anche voi. La prima grande vittoria che è stata la finale di Manchester del 2003, perché da allora grandi risultati, sì, avevo fatto bene, avevo vinto il campionato a Reggio il primo anno, dopo un secondo posto a Parma e due secondi posti alla Juve, che non erano molto gratificanti, per cui la prima grande vittoria sicuramente è stata Manchester, quella che ha, diciamo, dato la svolta. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Arrieccici. Tutti convocati. Super venerdì, tutti convocati. Pierluigi Pardo, vabbè, normale. Giuseppe Cruciani. Eccomi. Invece, super convocato di oggi. Pierluigi, tu volevi gli ascoltatori, no? Sì, 800-24-00-24. Non so perché ti ha preso sta fissa, ma comunque. 800-24-00-24. Pardo ieri ha preso sta fissa. Il popolo di tutti i convocati, facciamolo sentire al popolo della zanzara, facciamoglielo sentire. 800-24. Io dico in un altro modo, popolo della radio, no, popolo della zanzara, popolo della radio. Allora vai, fai l'appello, Cruciani, vai. Che popolo della radio, venite qui prima tutti convocati, poi 18:30 zanzara, vai a parlare di Ancelotti, derby. E poi di che cosa? E che ne so, mica faccio io a scaletta di tutti convocati, ci manca solo questo. No, diceva la zanzara. E poi, ma poi che ne so. Ma poi che ne sai ugualmente. Vedremo. Edoardo, buongiorno. Salve, buongiorno, buon pomeriggio e grazie della convocazione. Dica. No, ascoltavo voi su tutte le considerazioni fatte un po' sugli allenatori. Io, da tifoso del Napoli, volevo da voi un vostro parere su Benitez, se è un bene o un male se va via da Napoli. Bene per lui se va al Real Madrid, non c'è dubbio. Domandona. Dipende da chi lo sostituisce. Chi lo sostituisce è Mihajlovic. È un allenatore sicuramente di temperamento, quindi da questo punto di vista passare da Benitez a Mihajlovic può essere anche un vantaggio, perché una delle cose che è mancata al Napoli di quest'anno in certi momenti è stata una certa cattiveria agonistica, una certa capacità di stare sul pezzo, che con Mihajlovic probabilmente migliorerebbe. In assoluto Benitez non è facile da sostituire, cioè è un allenatore top, di livello top, non a caso lo cerca il Real Madrid, quindi i rischi ci sono. Il rischio di fare un po' un salto indietro dal punto di vista proprio della dimensione internazionale, della qualità del gioco, secondo me. Vabbè, Pier, la dimensione internazionale, sono andati a casa con il Dnipro, dai, fare un salto indietro la dimensione internazionale, cioè alla fine Benitez, diciamoci la verità, quest'anno ha fallito su tutti i fronti. Benitez ha ancora una possibilità, ma ad oggi è teorica, cioè, però no, Pier parla però di un'altra cosa. Siamo di fronte chiaramente che se sarà Mihajlovic a un allenatore che ha un grande curriculum da giocatore, cosa che non ha Benitez, internazionale, e dunque le sue sfide a livello internazionale avute, è evidente che dal punto di vista del coaching, se uso questa parola, cioè della sua carriera di allenatore, ha allenato squadre tra virgolette minori rispetto alla sfida che lo aspetterebbe. È un passo indietro. Da questo punto di vista sì. Però secondo me, per la prima cosa che diceva Pier, per il temperamento, per il carattere di Mihajlovic, mi sembra particolarmente adatto alla piazza di Napoli. Anche a me. Uh-huh. Particolarmente adatto. E credo che se dovesse essere questa la scelta in partenza, poi sai, nel calcio tutto sì, Giuseppe, ma secondo te è una buona scelta. Quest'anno Benitez ha fatto bene o no? Beh, ha fatto male, ma è evidente che ha fatto male. Prima il Napoli doveva restare in corsa per lo scudetto, una squadra che aveva tutte le potenzialità, a parte un po' la difesa, per restare comunque in corsa per lo scudetto, che invece è stato abbandonato da tempo. Io contesto sempre a Napoli questa sua fissazione, che probabilmente è giustificata dal denaro che si guadagna con la Champions League, nel voler puntare a più cose. Il Napoli deve partire dallo scudetto. Io credo che Mihajlovic partirà dallo scudetto, cioè dalla ricerca, dalla conquista dello scudetto. Cioè è impensabile che Napoli possa darsi una caratura internazionale senza prima passare da, non so, 5 anni in cui vince 2-3 scudetti. Questa è la mia sensazione. Non c'è nessuna squadra che sia passata, tranne rarissimi casi, da una dimensione, come dire, prima arrivando in semifinale di Champions League magari o in finale e poi vincendo gli scudetti. Nemmeno Chelsea, che pure ha vinto delle Champions, lo ha fatto. prima ha vinto uno scudetto con Mourinho, poi la squadra è cresciuta e è riuscita ad arrivare ai quarti in semifinale in Champions League. Poi ha vinto la Champions con Di Matteo. Le stranezze del calcio. Carlo Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Un caro saluto con affetto a te, Carlo, e a Pardo, però mi sono felice che c'è Cruciani, il mitico Cruciani della Zanzara. Perché? Sono contentissimo di averlo trovato. Una curiosità, è Parenzo, dov'è che sta? Ma io che ne so, adesso siamo qui a tutti convocati. Barisoni dov'è? Abbiamo notizie di Barisoni? Barisoni, svegliamo questa cosa. Parenzo non è tifoso di nulla, Barisoni è tifoso. Cagnola. Allora no, svegliamo queste cose. Io non svelo nulla di voi che siete in front, come dire, in prima fila, né di Genta né di Pardo. Non si può svelare nulla del loro tifo, anche se Genta l'ha detto più volte. Non c'è niente da svelare. Però il signor Barisoni è tifoso del Verona, dell'Hellas. Scusatemi, dell'Hellas, mentre signor che è Parenzo è tifoso del nulla, perché per lui la palla rotonda ed è come capisce nulla, esatto, sì. Ed è anche orgoglioso di non capire nulla. Però no, su alcune questioni Parenzo potrebbe dire la sua, per esempio su questa cosa di Belloli sicuramente, no? Beh, che sì, ne pensi di Belloli, Cruciani? Ma che vuoi che pensi di Belloli? No, ho fatto una meravigliosa, fantastica intervista l'altro giorno al signor Belloli, molto incazzato per il fatto che veniva un po' sottoposto al metodo Zanzara, però penso che già sono passati troppi giorni da quando ha detto quelle cose non capisco perché si debba passare attraverso questa gogna poi successivamente di un consiglio là che è stato consigliato. Consiglio federale in cui è stato dimissionato e perché non ha presentato le dimissioni prima. Francamente non capisco questo. Io non capisco perché abbia smentito le dichiarazioni che invece ma nessuno se le può essere inventate, no? Dai, magari appunto. Ci sarà stata sicuramente nel metterle nero su bianco un po' di strumentalizzazione, su questo non c'è dubbio, sì. perché è impensabile che fossero delle dichiarazioni ufficiali da metterle in un verbale. No, è evidente che qualcuno lo ha voluto punire per queste dichiarazioni. Da dire, non ho mai detto questo. Erano lì scritte da uno di quelli che partecipavano a quella riunione, da una in particolare, le hanno messe nero su bianco, qualcuno le ha sentite e nessuno se le può essere inventate. Quello mi pare evidente, che gli abbiano teso un tranello all'interno di quel contesto, questo è assolutamente certo, perché non è che una discussione ufficiale da un verbale può uscire, non diamo soldi a quelle quattro lesbiche, non può uscire da un verbale ufficiale, questo è evidente. È stato inserito dentro perché è stato ascoltato. Io posso dirti che mi trovo sempre di più, non so se sto avendo una mutazione genetica inquietante, ma mi trovo sempre più spesso, perché non c'è nessuna giustificazione per le parole di Belloli, lo dico mille volte, e secondo me la cosa da fare era una sola da parte sua, dimettersi e basta, insomma, chi tocca non si ingrugna, si dice, esatto, Roma, sì. Cioè capiti in una situazione del genere e pensi una merda, hai fatto un errore, c'è poco da fare, è l'unico modo per uscirne con stile. Però più vado avanti, e penso anche alla famosa telefonata di Lotito, sicuramente poco piacevole da sentire, sì. E più mi rendo conto che tante volte il confine fra chi dice una cosa e chi la registra o magari la sente e la mette dentro un verbale, gli tende un tranello, non lo so, perdo i punti di riferimento. No, certo, ma questo non è questo. Quello che dice Belloli è gravissimo, ma fare una cosa come quella, non lo so, a che pro? È chiaro che è un tranello, no? È chiaro che è una dubbio. Cosa fatta per danneggiarlo, così come la famosa telefonata Iodice Lotito. È ovvio che Lotito dice delle cose che possono essere imbarazzanti, ma lì c'è uno che finge di fare l'amico e gli registra la telefonata. Allora, sì. Io vorrei che tutti noi, al di là delle simpatie, delle antipatie, e ripeto per il fatto che poi su un discorso istituzionale, abbiamo detto mille volte che Parecchio l'anno scorso è partito in maniera pessima, perché quella cosa... Quella era una cosa detta appunto. Quella era una cosa detta a un microfono davanti a una platea, cioè in una veste ufficiale. Devo dire che tante volte, insomma, la confusione che esiste fra linguaggio pubblico e linguaggio privato è qualcosa che... Sì, però anche questa di Belloli è stata detta, poi messa a verbale in maniera impropria, però non è stata detta al bar. No, ma infatti lì c'è un errore di fondo. Non è stata detta al bar, cioè è stata detta in un certo contesto. Doveva già essersi dimesso, non c'è discussione. Ha ragione, però, Pier, secondo me. Cioè, la questione è molto semplice: c'è un tizio che commette un errore. Questo errore viene commesso probabilmente nell'ambito di una discussione, certo ufficiale, ma comunque all'interno di quattro mura. Questa frase qui, che non è una frase, diciamo, da verbalizzare, perché non puoi verbalizzare questa frase, perché è evidente che se la verbalizzi è perché lo vuoi fregare, non c'è dubbio. Cioè, chi ha verbalizzato quella frase base perché lo vuole fottere e l'ha fottuto. Ma è molto semplice, ma ci sta nel gioco delle parti, ci sta nel gioco della, di questa guerra per bande che c'è nel calcio in Italia, purtroppo, perché evidentemente anche in quel contesto che la Lega Nazionale Dilettanti eccetera eccetera c'è una guerra per bande. È un far west, un far west, cioè, perché gira un sacco di soldi con la storia delle scommesse della Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro, Serie ragazzi, di, purtroppo, cioè, dove girano i soldi in Italia, dove girano i soldi, no? In particolare soldi pubblici, in questo caso girano, diciamo, 50% soldi pubblici e 50% soldi di sponsor, cioè, dove girano i soldi c'è una guerra forsennata per bande e Belloli è vittima e in parte anche artefice del suo destino. Allora, traffico, poi andiamo con gli ascoltatori, come piace a voi, come piace a Pardo. Numero verde, Pardo? 800240024. È riuscito, traffico. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Convocati. E noi ne abbiamo ancora 7 per parlare con Pierluigi Pardo e Giuseppe Cruciani. Oggi tutti convocati, poi avremo un'altra mezz'ora di altri temi. Ma Gaetano da Salerno sa benissimo che la Salernitana è invischiata in certi problemi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono incazzato nero proprio per questo motivo. Perché la Salernitana assolutamente non è invischiata. In questo momento io sono arrabbiato per il linciaggio mediatico, il terrorismo mediatico nei confronti della Salernitana e di Lotito. In questo come fa a dirlo? È chiaro, è evidente. No, chiaro, è evidente. È evidente. Allora, le spiego qual è il tranquillamente. Motivo? Allora, prima di tutto, in questo momento è evidente che c'è una guerra intestina, c'è una guerra tra alcune bande, alcune fazioni nel calcio italiano. Una di queste fazioni è rappresentata da Lotito. L'altra fazione, le altre fazioni non fanno altro che attaccare con mezzi leciti e illeciti. Basta ricordare la telefonata di Iodice qualche mese fa. Questo compresa la magistratura. No, però scusa, io penso che l'ascoltatore in parte abbia ragione. Cioè, lui però, dice, Giuseppe, fai il bravo, però tu sai benissimo, no, che ragazzi, ci sono intercettazioni, dichiarazioni di personaggi, sono tutte cose da verificare. Ancora la vicenda, poi per carità, se sarà colpevole Mauri pagherà e tutto quello che volete, anche la Lazio, no, è evidente. Però ci portiamo presso questa vicenda, diciamo, del calcio scommessa a livello più alto da credo 3 anni. Adesso sono uscite le cose, come al solito fanno rumore i primi giorni sui media, certo. Intercettazioni, eccetera. Poi sono tutte cose da provare, il coinvolgimento ufficiale c'è della Salernitana di qualche giocatore, eccetera eccetera, però che insomma vedremo. Che c'è un paio di giornali, non il Sole 24 Ore, dove devo dire che Belinazzo insomma tiene un profilo molto alto, ma su altri giornali ci sia in questi giorni un po' questo un tiro buttare... a Lotito, certo, non c'è dubbio, questo mi sembra evidente, mi sembra evidentissimo. Insomma, penso che chi ha letto l'intervista al Fatto Quotidiano di Bogarelli di ieri si sia fatto un'idea di quello che è. Insomma, in questo momento il paradosso è che non si capisce, al di là del fatto che poi chiaramente vedremo l'inchiesta e tutto il resto, ma insomma in questo momento dovrebbe esserci una discussione su un accordo fra due televisioni con la Lega Calcio che ha ottenuto un contratto del 35%. Certo, ma infatti quello abbiamo già appurato, essere una salvo nuovi elementi. Siccome pure oggi ancora ci sono queste propaggini, è chiaro, è evidente che c'è, io non so chi onestamente, ma so che c'è in questo momento un tipo di sensibilità particolare su questi temi, poi magari è semplicemente una sensibilità che c'è a livello di opinione pubblica e quindi i giornali cavalcano da un certo punto di vista questo. Però francamente io credo che le persone debbano stare molto attente, e non è sempre facile, anche non è facile nemmeno per noi, nel distinguere le cose che è molto facile mettere il guano nel ventilatore. Ma su alcune partite ci sono addirittura delle confessioni, quasi ci sono delle cose abbastanza evidenti, su altre ci sono solo voci. Appunto. Quello ha detto quello ha detto quell'altro, quella è comprata, quell'altra non è comprata. Tu mi insegni che c'è molto di millantato in queste vicende. Però piuttosto voglio chiederti, Giuseppe, cosa ne pensi dello spostamento del derby? Perché questo ha dato l'impressione del fatto che Lotito in quella sede tutto può e tutto fa. Guarda, io vado un po' controcorrente rispetto alla massa di tifosi della Lazio E dico che lo spostamento del derby è stato un errore clamoroso, ma non dico per le televisioni, perché le televisioni, vabbè, insomma, è certo che è un danno, perché la partita alle 18 la domenica, 18 il lunedì, anche per le televisioni è un problema, però insomma nell'ambito di un anno intero sono cose che si assorbono. Il problema è la credibilità, perché è più importante, paradossalmente, a livello di Champions League, facendo i conti che sto facendo in queste ore, è molto più importante Juventus-Napoli. Ma certo, cioè, è la partita, di sabato tra Juventus e Napoli. Proprio per questo, la Roma potrebbe perdere il derby e arrivare seconda, potrebbe vincere il derby e non andare in Champions League. Ragazzi, esatto, ma è proprio per questo motivo. La partita chiave è Juventus-Napoli, e se io vedo oggi dalla Gazzetta dello Sport e da altri giornali la formazione della Juventus, anche rispetto alla formazione, giustamente dico, anche rispetto alla formazione, poi magari vinceranno, però anche rispetto alla formazione che ha affrontato l'Inter, più o meno nella stessa situazione, cioè tre giorni prima della finale di Coppa Italia, stesso giorno, eccetera, francamente mi viene da ridere. Sì. Cioè, è una Juventus che gioca con una formazione che magari, ripeto, magari vinceranno, quelli che subentrano ci metteranno più energia. Legittimamente l'ha fatto anche con l'Inter, che pure era impegnata e ha vinto comunque. Legittimamente la Juve, secondo me, ha fatto bene che si prende questo vantaggio. Ma io sono d'accordissimo con te e completo il discorso che condivido pienamente. È incredibile questa mia adesione a Cruciani, mi mette quasi paura. Però voglio dire, l'elemento fondamentale è che Lotito, secondo me, questa volta, secondo me, ha esagerato. Sì, ha esagerato. E dal punto di vista mediatico, poi magari sarà un caso il fatto che in questi giorni si parli molto di lui sui giornali per tutta una serie di vicende. No, l'ho messo nella condizione di quelli che lo vedono come un privilegiato. Capito? Beh, è un privilegio che la Lazio ha ottenuto, senza senso, perché non credo che cambi qualcosa se la partita si giocava in contemporanea, perché a quel punto sarebbe stato logico giocare in contemporanea Juventus-Napoli alle 18 di domenica. La Juventus ma tu credi opporsi. Che non lo sia? Eh? Tu credi che non lo sia? Cosa? Un privilegiato? No, ma non credo che in generale sia un privilegiato. Le notizie di questi giorni fanno capire che non è proprio un privilegiato lo titolo, nel senso che comunque insomma, lo hanno messo in mezzo su più fronti. No, ma non credo che sia un privilegiato. L'hanno questo... messo in mezzo, Giuseppe, però il punto no, che... No, ha ottenuto un privilegio in questo caso, non c'è dubbio. No, ma io solo dico che è un errore madornale, io lo dico dal primo giorno in cui questa storia è uscita fuori. Lo spostamento del derby per la Lazio è un errore mediatico, di porsi nei confronti del mondo del calcio, un errore madornale. Io non credo che si... che ci saranno influenze sul risultato, non credo che gli arbitri faranno qualcosa perché pensano che Lotito sia privilegiato. Io non credo, però mette la Lazio nella condizione di, io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Malagò, incredibilmente ti dirò d'accordo con quello che ha detto Baldissoni, perché Baldissoni ha detto una cosa logica: non si capisce per quale motivo questa partita venga rinviata quando ci sono moltissime altre partite che di mercoledì in cui l'altra squadra gioca la domenica, si giocava a Roma, non si giocava nemmeno in trasferta, tutte e due a Roma, non c'erano i presupposti per questo spostamento. Una cosa, se vuoi, in 5 secondi. Giuseppe giustamente dice gli interessi delle televisioni, ma gli interessi dei tifosi, cioè, ma lì c'è gente che ha comprato il biglietto per una partita, sì, quello c'è il rimborso, cioè, quello c'è il rimborso, sì, no. Sì, ma voglio ma, dire, ma poi c'è anche il problema, hai sollevato l'altro giorno, Roma a quell'ora è il lunedì, è una città aperta con tutto quello che ne può conseguire. Un'altra volta si è giocato, quello non è un problema. Il problema è quello là, è quello che dice Pari: i tifosi che devono andare allo stadio non ci possono andare. La seconda cosa, comunque, per le televisioni, che è un pubblico più ampio di quello dei 60.000-70.000 andando allo stadio, alle 18 del lunedì ci sarà meno gente davanti alla televisione. Certo. Su questo c'è ragazzi, dire. Grazie. Grazie Paolo, grazie Giuseppe Cruciani, sentiamo dopo il GR. Sono orgoglioso di ascoltare Radio Italia, Radio. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Dario Giorgio, vi prego di rimanere in linea 800240024, perché dopo il confronto tra Cruciani e Pardo e dopo le cose che ci siamo dette, adesso ne voglio un altro telefonico tra Carlo Laudisa, responsabile del mercato, mamma santissima, del mercato, la Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Ed Emilio Perez de Rosas, che è il responsabile dello sport del periodico de Catalunya, dalla Spagna. Ciao Emilio, finalmente ci ritroviamo. Ciao, come stai? Buonasera. Io sono convinto, allora dimmi qual è la situazione di Luis Enrique. Io sono convinto che la prima scelta di Ancelotti sarà il Barcellona. No. Io penso che fa 3-4-5 mesi è possibile che Luis Enrique sta pensando di andare via, ma in questo momento penso che la situazione molto cambiata. Penso che lui sta pensando in compiere il anno che gli resta ancora di contratto, possibilmente questo sia vero, con alcuna condizione di più, anche lui è una persona molto molto introvertita, molto ferrata, molto sua, della sua gente. È troppo difficile pensare che cosa sta pensando in questo momento, però penso che sia recuperato la relazione con Leo Messi. Penso che sì, il campionato, sì, la temporada, sì, l'anno finisce veramente fantastica, come tutto il mondo pensa qui a Barcellona. Io penso che lui resterà l'anno di contratto che gli manca. Dove credi che vada Ancelotti? Io? Sì. Oh, non so, qui alla Spagna oggi si parla di che Berlusconi ha inviato un emissario per parlare con Carletto e per portarlo al Milan. E tu ci credi? Ma io, lo primo che io credo è che mi sembra che il Real Madrid è un autentico casino. Quando penso che è un autentico casino è perché veramente, se tu vedi la foglia di ruta della squadra negli ultimi anni, è un disastro comparativamente con quella del Barcellona, no? È possibile che il Barcellona aveva tanti allenatori, no? È vero che aveva tanti allenatori come il Madrid, ma sempre con un stile di gioco, sempre con un'idea e tal. Il Madrid ha cambiato tutto perché il Madrid soltanto dipende del suo presidente. Sì. Il capriccio del suo presidente, di quello di prendere il giocatore che sta più di moda quell'anno, di gastare milioni e milioni di euro, si va bene per la squadra o se no va bene per la squadra, indifferente, obbligare al tecnico a fare una allineazione sempre con Cristiano Ronaldo, Benzema, sì, sì. Bale. Penso che il lavoro che ha fatto Ancelotti a Madrid, anche alla Spagna, anche al calcio spagnolo, e soprattutto il signorio e l'estilo con che lo ha fatto è brillante, è veramente esemplare, è veramente perché la squadra, il club deve stare orgoglioso di questo allenatore. E lo primo che pensa il presidente, che il club, che il proprietario, che la squadra, è andarle via quando ancora gli manca un anno di contratto e prende un altro. Mi sembra realmente incredibile. In ningún momento si pensa che qualche cosa si è fatto malamente, che si può rettificare quello della rotazione, non giocare sempre con la stessa squadra, con 11-12 giocatori. Ma è vero che il Madrid ha fatto un anno brutale fino a dicembre-enero, no? Ma sì. Allora parliamo con l'allenatore, parliamo che cosa necessita, facciamo un'altra volta, un anno più, questo allenatore che è un signor, che è veramente un signor, e che ha vinto tanto, e che ha fatto giocare la squadra tan bene. Non so, per me è una follia, è una follia che anche noi non capiamo. Emilio, io ti ringrazio, ci sentiamo prestissimo, in vista della finale sulla strada verso Berlino, meglio Perez de Rosa. Tremendo, tremendo. Grazie Emilio. Carlo. Sì, è comunque una bella prospettiva dalla Catalogna guardare le vicende. Sì, del Real Madrid, certo, è interessante. Sì. Ma tu sei convinto? Io ho letto attentamente quanto scrivi oggi e naturalmente di te mi fido, però sì. Io continuo a non crederci. Allora, se proprio vogliamo entrare nel soggettivo, io il giorno prima del titolo Si Può avevo ristretto la cerchia a tre nomi, sì, no? Ho visto. E avevo dato le percentuali più basse ad Ancelotti. Sì, ho visto. Appunto. E perché si sono alzate? Perché ti ricordo ai nostri ascoltatori questo passaggio. Perché tutte le difficoltà, tutte le problematiche legate a questo clamoroso approccio le condivido anch'io. E sembrava impossibile, anche perché fino a tre giorni fa questo che ci ha appena detto l'amico catalano sembrava impossibile, no? Cioè che Florentino davvero arrivasse a tanto, a mandar via... ma oggi le dichiarazioni di Ancelotti sono abbastanza chiare, no? cioè, ormai oggi ci lunedì ci vediamo, io mi sento ancora allenatore del Real, dichiarazioni di facciata, è evidente che l'hanno già licenziato. C'è Ernesto Bronzetti lì che sta andando a riscuotere la matassa, a riscuotere, e quindi a liberare Ancelotti, che evidentemente ha già parlato con il signor Berlusconi, ha ripetutamente parlato con Andrea Gagliani. Io oggi l'articolo odierno poggiava su due concetti fondamentali: la proposta di un contratto triennale a Carlo Ancelotti, e questo è il presupposto, diciamo, economico, è una squadra competitiva, da un progetto competitivo. Io credo dove arrivano i soldi per il progetto competitivo, appunto, magari. Io credo che Ancelotti voglia vedere questo progetto competitivo, uh-huh, e dopodiché sciogliere la sua riserva, che in questo momento c'è chi si diverte a dire è già no. Io dico che in questo momento dare per scontato che Ancelotti sia il nuovo allenatore del Milan è prematuro, però da quello che mi risulta, da quello che abbiamo scritto e da quello che riscriverò domani, poi a me fino a casa di prosimile nelle prossime ore, e che Ancelotti ha aperto il dialogo con il Milan, sta aspettando che di liberarsi dal Real Madrid, e poi si siederà a un tavolo, si confronterà con Gagliani, Berlusconi, e dopo prenderà una decisione. Sì, io guarda, in queste cose credo pochissimo alle faccende di cuore, di sentimenti, eccetera, eccetera. Non ho messo in campo questo. Esattamente, io eviterei queste suggestioni. Dico soltanto che Ancelotti è un allenatore top al mondo, tra i primi 3 al mondo, 5 al mondo, poi fate voi le classifiche, i podi, quello che volete. Non va a giocarsi la faccia e la credibilità in una squadra con Menez Stella. Paradossale, non solo Ancelotti è uno dei più forti allenatori al mondo, ma è anche già seduto sulle panchine più importanti del mondo. Certo, e in questo momento è difficile per lui trovare una nuova iniziativa, una nuova avventura in un club ambizioso. E se ti dico nazionale italiana tra un anno? Tra un anno, ma intanto l'altro, il vero problema sarebbe stato se effettivamente il Manchester City, per esempio, fosse allontanato da Guardiola, perché quello era l'unica tappa che in questo momento lo avrebbe sicuramente incuriosito o lusingato, per meglio dire. A proposito del Barcellona, io ho ascoltato con piacevolezza la cronaca del nostro amico catalano. A proposito dell'iniziativa di Braida o di Bartomeu, che hanno peraltro smentito, va ricordato che c'è e all'orizzonte un'importantissima elezione presidenziale. Certo. Quindi chi è su quella seggiola, certo, in questo momento conta poco. Non ha potere decisionale agli occhi di Ancelotti, perché magari fra 6 mesi salta il banco. Per quanto Barcellona, peraltro, io di allenatori italiani a Barcellona non ne ricordo, proprio per quel concetto che era stato espresso prima. Loro hanno una filosofia di gioco, hanno una loro identità e faticano ad accettare altri maestri all'infuori di Cruyff. Sì, questo è vero, Carletto. E poi la genesi quella, eh? Questo è vero. Senti, ti chiedo ancora una cosa che riguarda il mercato della Juventus. Le abbiamo lette tutte in questi giorni, però io credo che Dybala e Cavani, Dybala già fatto, Cavani credo che arriverà davvero. Dipende da Pogba. Su Cavani abbiamo informato per tempo del suo sì al contratto con la Juve, ma il PSG, c'è il fair play finanziario all'orizzonte, ci sono dei limiti di spesa, vediamo cosa farà Ibrahimovic. Il PSG non può permettersi il lusso di privarsi contemporaneamente di Cavani e Ibrahimovic. Ibrahimovic al Milan è un'ipotesi possibile? Ma non sarebbe congeniale con comunque il progetto nuovo, sarebbe comunque il completamento, certo, della mozione degli affetti a cui facevi cenno tu prima. Certo, certo, ecco, certo, quindi certo. Mai dire mai, però razionalmente direi no. Grazie Carlo, buon lavoro. Un saluto a tutti. Ciao Carlo. Allora, torno agli ascoltatori prima di andare al Giro d'Italia, dove oggi, ragazzi, se non vince un velocista con una tappa che è praticamente un tavolo da biliardo, io non so più cosa dire, velocisti dove siete? Dario, Gorizia, buongiorno, grazie per l'attesa. Grazie per la convocazione. È un identikit del prossimo allenatore del Milan, deve essere, come sa, giovane, cioè ancora giovane, deve avere carisma, deve avere le palle, possibilmente milanese, magari libero, deve essere gradito alla tifoseria e deve essere uno che sappia fare buon gioco e che conosca gli italiani. Quindi facciamo un nome, facciamo un nome. Un unico che purtroppo non è ancora venuto fuori, Donadoni. Donadoni non è venuto fuori, dico un signore come quello, c'è anche file, che non è inferiore a quello di... Sì. Dico di Ancelotti come stile, come esperienza, no, ma c'è anche l'esperienza elettorale, ex preparatore della nazionale, dico convocatore della nazionale, dico ma come mai non lo si va a prendere, no? Anche perché si può fare questo progetto italiano che poi possa essere una buttata preelettorale, sì, ma fino a un certo punto non, io la situazione del Milan, soprattutto quella societaria, non ci capisco davvero niente, anche perché ma nessuno ci capisce davvero niente, però io credo, Dario, che Donadoni non abbia poi in maniera errata, però probabilmente non viene ritenuto come un allenatore che ha quel carisma necessario per incendiare di nuovo la piazza. Quindi poi nessuno discute i meriti di Donadoni, la bravura di Donadoni come allenatore. Facciamo una questione di physique du rôle, no? Che abbiamo fatto tante volte nel confronto tra Mazzarri e Mancini. Secondo me Donadoni non viene preso in considerazione proprio per questo, cioè se si vuole davvero fare un progetto incendiario dell'amore milanista, naturalmente di rilancio, io non credo che l'allenatore giusto possa essere Donadoni. Continuo a non pensare che sarà Ancelotti, questo in attesa di essere smentito dai fatti. Giorgio, buongiorno. Piacenza. Buongiorno. Dica. Io volevo parlare di Inter. Cioè, prima volevo dire che in realtà il Barcellona ha avuto un allenatore italiano che si chiama Sandro Puppo nella notte dei tempi. Sì, sì, allora, sì, questa sì. È un'altra cosa. Però invece volevo parlare di Inter perché ieri sera io sono di Piacenza. Di Piacenza abbiamo visto l'Inter vincere l'ennesimo torneo giovanile primavera con dei giocatori come Bonazzoli e altri che ci starebbero benissimo in prima squadra. Invece io devo continuare a vedere il nano giapponese, il bradipo brasiliano, tutta questa gente. Sì, non facciamo una questione. Poi ci dicono che siamo razzisti, Giorgio, non facciamo una questione di provenienza. No, ho capito, però di fatto gioca il nano giapponese che era un giocatore mediocre del Cesena che è titolare, adesso è tornato titolare dell'Inter. Poverino, è stato fuori tutta la stagione, non credo i problemi possano... Ma poverino, ma un giocatore di una mediocrità assoluta, adesso se vogliamo negare che Nagatomo è un giocatore di una mediocrità assoluta e che Wangelis è un difensore centrale di una mediocrità assoluta, vabbè, allora cioè proprio, ma perché che... mi dica lei perché non gioca Vidic, che non è né nano né giapponese né... Ma allora non gioca Vidic per la ragione semplice che sabato scorso nel passaggio di Medel Vidic aveva un metro e mezzo di vantaggio, da Matri ne ha presi tre. Quindi per quello non gioca, è evidente che non gioca per quello, secondo me. Ma a parte quello, secondo me il problema è un altro, che nell'Inter ci sono un sacco di ragazzi bravi. Bonazzoli, io vi invito a vedere Bonazzoli, io sono... Giorgio lo conosciamo, ma deve giocare, devono giocare, devono avere delle responsabilità. Allora, se tu ricorderai molto bene che l'Ajax sta facendo giocare sette giocatori che hanno perso la Champions League dei giovani dalla squadra di Stremaccioni, giocano tutti i titolari anche in Champions League. Certo, di noi chi ne gioca di questa Giorgio, però la questione è diversa, cioè hai presente San Siro? Hai presente far giocare Bonazzoli e far giocare tanti ragazzi a primavera? Hai presente i fischi che possono arrivare dal terzo piano, dal secondo piano, cioè quelli che ti stroncano una carriera? Cioè, io sono d'accordo, in linea teorica, ok, abbiamo giovani giocatori, una primavera comunque molto forte, però non dobbiamo dimenticare quali sono le aspettative e qual è il palcoscenico. Quindi si fa presto a dire facciamo una squadra improntata sui giovani. I giovani ci mettono anche un attimo ad essere incendiati da quei fischi, come sono stati incendiati da quei fischi, ed è inutile nasconderlo, giocatori con un'esperienza molto maggiore. Io non credo, vi dico la verità, non credo che il Milan e l'Inter possano permettersi di dire ok, quest'anno puntiamo sui giovani e vediamo se riusciamo ad arrivare a metà classifica. Giovani del vivaio e giocano loro. Poi voglio contare gli abbonati e voglio sentire il rumore di San Siro quando si perde magari in casa 3-2 con il Chievo, perché cose che possono succedere con i giovani. Non credo che piazze di questo tipo possano permettersi di costruire progetti di questo tipo. Ciao Pier Augusto Stagi dal Giorno d'Italia. Ciao Carlo. Sto guardando la foto di Aru stravolto dopo l'arrivo della tappa di ieri nella pioggia. Devo preoccuparmi oppure no? Ma guarda, la preoccupazione c'è anche in casa Stane e anche nel cuore di Aru. Ieri sera cercava di mitigare la preoccupazione, però chiaramente ascoltandolo facevo anche lui stesso trapelare qualche punto interrogativo, e credo che il gioco di Contador sia quello. È vero che sono punture di steel, è vero che sono solo 14 secondi, lui ne ha persi 8 più sedia buono, quindi non c'è da far drammi, ci sono tutte le montagne ancora da scalare e si daranno delle legnate che metà basteranno. Però a livello di certezze psicologiche incidono in modo particolare alla luce della cronometro di domani. Cioè, intanto Fabio sperava di arrivare a Valdobbiadene, cioè, sì, da Treviso, per la Treviso Valdobbiadene del domani, la crono in maglia rosa per poter partire ultimo e quindi conoscere i tempi dei suoi avversari, avere dei punti di riferimento. E quindi il primo obiettivo è stato fallito e non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. E l'altra è che invece di andare crescendo ha avuto una battuta d'arresto, il freddo, il gelo, forse ha consumato un po' troppo, sicuramente ieri si è alimentato male, perché il finale della gara di ieri è eccezionale, in condizioni al limite dell'estremo, non ha consentito una buona alimentazione. Tu dici, ma allora Contador è più bravo ad alimentarsi? Sì, Contador è un corridore un po' più di esperienza, ragazzi, cioè questo ha vinto anche qualcosa, dai. Esatto Carlo, dicendo una banalità, cioè, devi imparare a mangiare e fame. Invece quando tu ti senti forte, dice no, ma io mi sento forte, non ho fame, sto bene così, sì, poi perché la fame ti arriva, la fame ti arriva all'improvviso, e quando ti arriva è tardi, certo. Quando ti arriva è tardi alimentarti, non ce la fai più. A lui gli è arrivata a 20 km dal traguardo, quindi è arrivato proprio allo strappo finale che non aveva più. Che non aveva più, come dico, appunto di zuccheri. E niente, ha preso questa piccola botta nel morale più che nella classifica, certamente. Senti, dammi un nome secco per il vincitore di oggi, poi ti saluto e ci sentiamo dopo. Oggi un nome secco, Elia Viviani. Va bene, poi scopriamo se ci hai preso, naturalmente, nel giro. Seconda battuta, se mi concedi un bis, sempre italiano, Giacomo Nizzolo, che potrebbe essere per lui la prima vittoria a questo Giro d'Italia. Al Giro d'Italia ti concedo due chance, perché ti voglio. Viviani Nizzolo per Pieraugusto Stagi, e poi scopriremo se avrà avuto ragione. Grazie Piera, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Sentiamo domenica dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano, e poi lunedì alle 2. Ciao e saluto tutta la Filippogna, i filippini e le signore delle Filippine.